sera, come stavamo facendo, siamo al telefono con un compagno che sicuramente meglio di noi ci può raccontare la storia di Sole e Baleno. Probabilmente i primi nomi che chi è un po' grande si ricorda rispetto alla lotta no TAV, non solo per ricordare da quanto tempo la lotta no TAV va avanti, ma anche perché la repressione di oggi non è l'inizio della repressione riguardo alla lotta no TAV, anzi forse quella subita da Sole e Baleno era proprio il primo tentativo gigante di far passare per terroristi coloro che si opponevano invece a questo mostro. Sì, era il 98, il 5 marzo, cioè il 5 marzo del 98, quando c'erano praticamente sono stati gli arresti di Sole, Silvano e Baleno, che erano stati accusati da un pool di giudici, tra l'altro della Procura di Torino, gli stessi praticamente che sono in ballo ora. C'era già Maddalena, c'era l'Audi che conduceva l'inchiesta, che poi è scomparso, e c'era Tatangelo, che era un giovane rampante comunque di quella cricca, la stessa cricca di personaggi, di giudici che già negli anni 70 bazzicavano qui nella Valle di Susa, quando allora era da reprimere il movimento, diciamo, degli anni 70, dalla prima linea a tutti i vari, le varie componenti che qui in Val di Susa erano molto attive e agivano. Sole, Silvano e Baleno vengono arrestati con un'accusa molto grave, ovvero di essere lupi grigi, di essere così si firmavano, dei presunti attentatori alla responsabili di alcuni sabotaggi, attentati alla linea dell'alta velocità. In realtà poi, insomma, quello che ne seguì fu un attacco, fu un esempio molto evidente di che cosa significava. Erano anni in cui il movimento notavi esisteva già, perché il progetto era già uscito, era già partito. Allora non si parlava di un treno, perché adesso lo si chiama tutti TAV, ma in realtà sì, il progetto è per un treno TAC, ovvero treno ad alta capacità. In teoria il treno ad alta velocità che dovrebbe portare i passeggeri in 3-4 ore a Parigi è solo un sogno. Insomma, già negli anni 90, alla fine degli anni 90, si contestava la necessità di fare un treno ad alta velocità per portare dei passeggeri, visto che il traffico passeggeri non c'era. Già allora era in calo, e insomma adesso il progetto è più dedicato appunto a fare una linea ad alta capacità, ovvero una linea di trasporto merci dall'Italia alla Francia, nonostante il fatto che tutto il movimento notava abbia dimostrato che il trasporto tra i due paesi oramai non necessita di un investimento così oneroso. Allora il movimento, l'opposizione al TAV c'era già, erano piccoli gruppi nei vari paesi, non c'erano ancora i comitati, e soprattutto c'erano già stati dei volantinaggi, delle iniziative anche pubbliche nella valle. Sole, Silvano e Baleno vengono presi perché sono, insomma, un trait d'union tra quello che era un movimento molto attivo negli anni 90, ancora oggi, quello delle case occupate torinesi, soprattutto di area anarchica, e in più abitavano a Collegno, e in più Silvano veniva proprio da Bussoleno, quindi dal cuore della Val di Susa, la stessa cittadina da cui oggi è partito il corteo, una città che lo conosceva bene, perché lui, insomma, è nato e vissuto in questa valle fino a spostarsi appunto alla fine degli anni 90 a Torino, nel giro delle case occupate. Vengono arrestati con l'accusa di essere responsabili di una serie di attentati e sabotaggi contro l'alta velocità. In realtà tutto il giro dei sabotaggi, attentati presunti, avevano obiettivi molto, molto variegati. Insomma, si andava da un ripetitore della TV a un pozzetto della Telecom, a una serie di altre iniziative che potevano anche apparire completamente slegate e di matrice completamente diversa. Ma quello che interessava ai giudici non era tanto il fatto che fosse verosimile la montatura, tanto che ci fosse un avvertimento molto chiaro nei confronti di quello che era un movimento che stava prendendo piede in maniera molto attiva qui in valle, e anche naturalmente alle sue proposte compagini cittadini, sono i movimenti torinesi che in quegli anni cominciavano appena ad interessarsi delle problematiche dell'alta velocità, insomma, perché il progetto non era ancora partito hanno fatto questo non cantiere, però allora era proprio solo a livello teorico e non c'era neanche ancora i progetti dei primi tracciati. Naturalmente l'arresto dei tre ragazzi fa scatenare i loro compagni torinesi e ci sono parecchie iniziative in città per liberare i compagni, insomma, quindi niente di nuovo rispetto a quello che è successo il 26 gennaio scorso, ovvero un grande repulisti, un po' di gente di tutti i giri. Ecco, questa è una cosa importante da notare, questi arresti almeno hanno un valore altamente simbolico più che portare le persone su delle responsabilità precise, nel senso che anche in quest'ultima tornata sono stati presi dagli anarchici ai ragazzi dei centri sociali, da ex militanti degli anni 70 a tutta una serie di attivisti di diverse tipologie, come a dimostrare insomma allora come adesso che all'interno di questo movimento, che poi tra l'altro viene smentito da una manifestazione come questa, adesso io non so i numeri che avete voi, ma qua sentendo Radio Blackout si parla di più di 50.000 persone, 70.000 persone, quindi una bella botta, e non si può dire che chiaramente tutta questa gente va in piazza o manifesta perché ci sono dei professionisti della sovversione o della violenza, come sono stati chiamati. La procura torinese ha fatto cerchi intorno alla figura di Caselli, che è il responsabile di queste iniziative. Anche questo ha un alto valore simbolico. Esatto, Caselli, infatti noi anche facevamo questo. Esatto. È uno di quei magistrati che sono ipercelebrati. Il supereroe della giustizia, no? Il supereroe, sì, John Wayne, c'è un interessante articolo, credo su Carmilla Online, che parla proprio di questo Caselli come un John Wayne, ma molto più antipatico di John Wayne. Sicuramente. Che John Berrego. Sì, quindi, insomma, anche questo ha un alto valore simbolico, anche perché poi a vedere nella pratica, nelle accuse, non so se ne avete discusso o approfondito l'argomento, insomma le accuse sono di una banalità sconcertante, insomma in questo modo chiunque partecipa a una manifestazione, a un corteo in cui succede qualche pasticcio può essere tranquillamente arrestato, dagli strattonamenti alle stampelle del consigliere comunale di Larfocchiardo, insomma un po' ridicolo. La storia di Sole e Silvano Baleno si conclude molto tragicamente, perché Sole e Baleno entrambi si suicideranno in stato di detenzione. Baleno, Edoardo Massari, nel carcere delle Vallette a un mese circa dal suo arresto, neanche, perché era il 28 di marzo, quindi insomma non erano passati neanche 30 giorni, e invece Soledad si impicca ai domiciliari nella comunità di Benevagenda, dove era rinchiusa appunto perché aveva rifiutato di nell'ultima proposta difensiva fatta da qualche super avvocato torinese, aveva rifiutato di fare la parte della ragazzina che era stata coinvolta in una storia più grande di lei e non aveva assolutamente capito cos'era. Lei aveva invece era partecipava alle iniziative delle case occupate, era attivissima e insomma ha rivendicato fino all'ultimo, nonostante che l'avrebbero volentieri liberata pur di levarsi il problema. Invece poi Sole si impicca anche lei in stato di detenzione e Silvano verrà condannato in primo grado a più di 7 anni di carcere. Poi i compagni di merende della procura torinese riusciranno a resistere fino all'appello, in cui vengono sostanzialmente confermate le pene per Silvano Pellissero, ma invece poi in Cassazione a Roma tutto salta, probabilmente perché le mani lunghe della procura torinese non riescono ad arrivare a influire fino a Roma, tant'è che poi Silvano viene praticamente condannato allo stesso numero di anni di prigione che aveva scontato in attesa del processo, quindi 4 anni e qualche mese. Da dire che in Cassazione viene completamente cassata tutto il teorema della tutto il teorema che aveva montato la Procura di Torino, ovvero non c'era nessuna associazione avversiva, non c'era nessuna banda armata e semplicemente Silvano, l'unico dei tre che rimane vivo, viene condannato per dei reati specifici che non hanno niente a che vedere, diciamo, con una banda che avrebbe agito in Valle di Susa, insomma, per cercare di creare una situazione sovversiva e eversiva dello certo. Stato. Insomma, gli arresti ultimi credo che abbiano più o meno lo stesso significato. Secondo me un altro significato che molto spesso gli si può trovare è quello di dire: la Valle di Susa adesso completamente compromessa da una serie di attivisti che cioè come se fosse un brodo di coltura delle peggio anime ribelli che possano esistere nel nostro paese adesso. Sicuramente un valore simbolico la lotta ce l'ha, al contrario, nel senso che in molte parti d'Italia ci si è accorti che questa, insomma, non è ma non lo è mai stato, però adesso è ancora più evidente che, insomma, qui si passa questa è una lotta che dovrebbe arrivare, cioè, insomma, se si vince è una lotta che impedisce al capitale di proprio fare il cazzo che gli pare nel paese, con i soldi oltretutto pubblici, eccetera eccetera, la devastazione ambientale e tutto quanto il meccanismo. Esatto, anche perché poi gli esseri umani che poi riusciranno a sopravvivere a queste autoruine, appunto, non se ne parla, un assorbimento totale al viaggiare delle merci in nome del capitale, insomma. Sì, io poi oltretutto volevo anche ricordare, magari è marginale, però qui si sa molto bene, stanno anche facendo un progetto per raddoppiare la canna del Freius autostradale, quindi non si capisce come mai, se raddoppiano un percorso stradale cioè su gomma, non si capisce perché poi debbano venirci a raccontare che vogliono levare le merci dalla strada e portarle su rotaia. Per Sole Silvano e Baleno sono molto citati in Valle di Susa, anche perché effettivamente sono stati i primi a essere vittime di questo meccanismo che secondo me non è assolutamente cambiato, ovvero l'avvertimento chiaramente di stampo mafioso, nel senso, se ti muovi, se ti fai vedere, se ti esponi in queste lotte, naturalmente la pagherai con questo modo oltretutto paternalista di esatto. Tenerti in prigione, no? Quindi ti tengo in prigione come fa il bravo papà che non ti lascia uscire la sera per evitare di farti male delle tue marachelle, ecco. Anche perché, appunto, dicevo prima, il criterio con cui sono stati adesso, insomma, ancora della gente viene tenuta in galera è veramente ridicolo, insomma, ci sono dei reati per cui nessuno sta in galera, ecco, a parte, appunto, chi è responsabile non tanto di un reato specifico ma di essersi esposto, di aver partecipato a un'iniziativa contro la linea ad alta velocità. Sì, tra l'altro, appunto, no, volevo aggiungere a questo che sì, ecco, il filo conduttore è esattamente quello. Ci sono dei compagni oggi che stanno al corteo che, quando hanno sentito che stanno qui a Roma, noi tra l'altro abbiamo un altro appuntamento qui antifascista dopo un'aggressione a Ostia, quindi da lì anche ci chiamano appena per chiederci di ricordare la storia di Sole Baleno, perché qualcuno di loro era troppo giovane, ricorda questi nomi ma non riusciva a dargli una collocazione. Questa, insomma, diciamo, la lotta contro la TAV sta diventando generazionale, e credo che sia molto bello vedere il fatto che ha lievitato, è diventata più ampia, ha coinvolto settori diversi, ha coinvolto realtà diverse. Oggi un compagno da Suci gli chiedevamo dei numeri, ci parlava di circa 50.000 persone che nella loro differenza sanno però tirare le somme. Allora parlavamo delle bandiere scritte in greco piuttosto che, appunto, di una diversità di pratiche, di modalità e di provenienza, che però sono confluiti tutti, insomma, da tutta Italia oggi in Val di Susa. Quindi, insomma, sì, ricordare proprio questa storia, insomma, credo che sia ancora più importante oggi, che si riesce a essere in 50.000 rispetto a, insomma, Edo Sole Baleno, che sono stati, diciamo, i primi grandi che hanno sottolineato, che hanno fatto poi venire fuori, che hanno fatto arrivare fino in Sicilia, insomma, la lotta della Val Susa. Sì, chiaramente e anche perché, cioè, se c'è così tanta gente è perché evidentemente non, è chiaro a una parte della popolazione consistente, non solo della valle ma anche nel resto del paese, che insomma che questa roba non sa da fare, questa opera non sa da fare, e quindi comunque è purtroppo un grosso problema, perché se su altre grandi opere o altri grandi progetti il mondo, diciamo, politico e imprenditoriale tergiverso eccetera, qua invece sono passati tutti i governi, ricordiamo che dal governo Prodi che era quello che aveva già obbligato tutti i suoi alleati, insomma, per partecipare al governo bisognava approvare il decalogo, non mi ricordo cos'era, per cui bisognava anche accettare che si andasse avanti con la linea ad alta velocità. Tutto il periodo berlusconiano, ma anche adesso a Monti, non cambia niente, nel senso che questa opera qua ha probabilmente scatenato degli interessi, degli appetiti talmente consistenti, appunto, che poi si arriva a questi livelli. Ecco, allora nel 98 Sole, Sivan e Baleno probabilmente già si muovevano gli stessi protagonisti, cioè lo stesso giro di affari era già molto attivo allora si trattava di un avvertimento che probabilmente si immaginavano poteva bastare, diciamo, invece certo. non è stata così, perché la valle ha continuato, insomma, a battere, anzi è diventato sempre più evidente da allora in poi quali erano le dinamiche, come esercita il potere la lobby affaristica, insomma, in questo caso in Valle di Susa, ma anche nel resto d'Italia, e non credo ci siano grandi differenze, e quindi chiaramente chi non è d'accordo viene schiacciato. Adesso sarà un po' più un problema riuscire a schiacciare 50.000 persone rispetto a una serie di piccoli gruppi che agivano su un territorio un po' ristretto. Comunque, insomma, gli strumenti della repressione naturalmente sono molto, molto efficaci. Tra l'altro da rimarcare che allora come adesso il lavoro dei media, il servizio che fanno i media a questo progetto è veramente impressionante, nel senso che c'è uno schieramento assolutamente concorde e senza neanche una crepa, tutti i giornali, tutti i maggiori quotidiani nazionali, a meno di quelli di cross tiratura, con qualche rarissima eccezione, sono assolutamente schierati sulle posizioni diciamo a favore di questo progetto. Questo è molto grave, anche con tutta questa ultima campagna di piagnucolio intorno alla figura di Caselli, non fa altro che confermare che ci si gettano a pesce qualunque motivo è buono pur di cercare di infangare il movimento, e cercare soprattutto di tenerlo lontano, allontanarlo proprio fisicamente dalla solidarietà che potrebbe riscuotere nel resto del paese, insomma un po' come quando ai cortei ti blindano in mezzo a una marea di celerini, per cui insomma non riesci neanche a dare un volantino ai passanti, perché non ti fanno proprio comunicare con il resto del mondo. Ecco, c'è una cortina proprio di ferro intorno a quello che succede in Val di Susa, che per fortuna, insomma, anche il movimento ha degli altri strumenti, le radio autogestite, internet soprattutto, che danno la possibilità di saperne qualcosa di più. Ecco, questo sarà anche questa una grossa sfida nei prossimi anni. Anche allora, ai tempi di Sole, Silvano e Baleno, era successa la stessa cosa, ovvero certo, i mezzi di informazione avevano fatto una costruzione spaventosa, allucinante, sì, alle loro figure, e questa cosa qua era stata una cosa che oltretutto aveva pesato tantissimo anche sulla possibilità del movimento di poter reagire, insomma molte volte era più girato o dal punto di vista appunto del terrorismo, di questa minaccia, di questo estremismo, che poi in realtà era semplicemente un gioco che loro mettevano in campo pur di tenere lontana la gente e di poter far sì che questa gente potesse sapere, quindi magari esprimere la solidarietà. Va bene, guarda, io ti ringrazio tantissimo, perché penso che in questo quarto d'ora abbiamo fatto una cosa assolutamente importante, quindi ti ringrazio. Sì, volevo ricordare che il libro al computer è liberamente scaricabile sul sito di Tutto Squat, si può tranquillamente, basta cercare su tuttosquat.net, su motore di ricerca, e si trova, e poi insomma, quindi chiunque può averlo a disposizione gratuitamente su internet, se no lì ci sono anche poi le dritte per trovare proprio il libro cartaceo, che però sta finendo, ecco. Prima meno della male. Prima edizione. Siamo contenti. Beh, no, ho già avuto tre ristampe. Tra l'altro l'ha scritto Tobia Imperato, sì, che è uno degli arrestati di questo giro del 26 esatto. gennaio. Lui era già stato arrestato alcuni anni fa in seguito a un corteo di protesta contro l'accoltellamento da parte dei fascisti di alcuni ragazzi del Barocchio Squat, e lui insieme ad altri erano stati arrestati a causa di questi scontri qua, quindi insomma lui la paga ogni volta, perché naturalmente è anche colpevole di aver scritto un libro in cui sputtana gli stessi giudici che allora avevano messo a morte Sole e Baleno e avevano tenuto in galera per un sacco di anni Silvano, quindi insomma è un racconto molto intenso, e ancora adesso appunto è stato uno di quelli segnalati dalla questura torinese come uno di quelli che bisognava mettere dentro, quindi che dice quello che c'è da dire, infatti. Allora io torno a ringraziarti veramente tantissimo, noi appunto sì, tra l'altro voi, tutte queste telefonate spazio. Le stiamo mettendo sul sito della radio, quindi insomma speriamo che vengano ascoltate il più possibile da chi troppo vicino per ricordarti queste storie, o comunque da chi adesso è affamato di sapere quando è iniziata questa lunga lotta contro la devastazione. Allora ti ringrazio, sì, e un abbraccio. Un abbraccio a voi. Ciao. Ciao.